Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Come definireste una donna che naturalmente è consapevole della sua avvenenza, del suo fascino, il fatto che poi soffocata nello scompartimento di un treno tra gente frettolosa, gente annoiata, gente assonnata, sembra come un fiore in un letamaio, si guarda intorno, tiene a distanza tutti, però naturalmente ha capito che in quello scompartimento la persona che può dare luce alla sua esistenza sono proprio io, perché sono ormai il viaggiatore che è curioso degli altri e sa benissimo che per lei sarà una grande occasione che io le domandi qualcosa sulla sua vita. Quando uno, diciamo, tenta di iniziare o anelare che inizi una storia con un uomo di un'amica, ex uomo di un'amica, secondo te deve avvertirla? Guarda, io mi interessa questo tuo ex, è nulla in contrario. Io l'ho avvertita quando ho capito che poteva diventare un qualcosa. Ho fatto forse un piccolo errore, nel senso che ho dato per scontato che a lei non interessasse più niente di lui, essendo passati 5 anni più o meno. E invece lei poi magari dispiaceva. Sì, non mi scrive più, quindi immagino. Ma tu lo capisci perché, no? Relativamente. Allora ti spiego io perché. Perché comunque lei ha condiviso un'intimità con quest'uomo. E lei sa perfettamente che quando lui avrà la stessa intimità con te ti racconterà tutto di lei. No, è un grandissimo signore. Beh, aspetta, ma guarda quanto ci stai. Ma poco. Vedi, poco. Aspetta, ci stai da tanto, comincerà a sbracarsi, comincerà a dirti sì, però la tua amica ammazza. Così come gli fanno gli uomini, fanno. No, al massimo lo so anch'io, dice gran tette la tua amica. Sì. Questa non ti scrive più. È brutto però non avvertire, sai. In fondo. No, ma l'ho avvertita io. Non mi scrive più da quando l'ho avvertita. Tu saresti rimasta male? No. Perché evidentemente usi gli uomini come fosse un bicchiere d'acqua, te li bevi e non ne tracci nessun ricordo, no? No, il fatto è che faccio delle scelte. Se scelgo di non stare con una persona, immagino che dopo un po' di anni e tante altre frequentazioni devo lasciare libere anche le persone. Però non sai che tipo, magari è stato il rapporto più importante della sua vita. Oggi tutti hanno questo senso dell'appartenenza, qualcosa che è stato tuo un pochino, pensi, immagini, ti illudi, sia tuo per sempre. Per me no, quindi non capisco questa cosa. No, per me ci sono delle persone che si incontrano, si regalano delle cose e se poi le storie finiscono si è liberi di incontrare delle altre persone. Io penso, vedi, adesso riflettendo, che il vero problema è che lei non riusciva a immaginare che un domani magari si esce tutti assieme, tu stai con lui e c'è anche lei, ci rimane male. Lei non lo vuole più vedere, così è costretta a vederlo se frequenta te. No, lei lo vede, sono amici. Ah, sono rimasti amici? Sì, non è che si vedono quotidianamente. Ah, quella cosa terribile, dopo la fine di un amore rimani buon amico. Per questo pensavo che fosse una cosa totalmente risolta. L'amore comunque non ha soluzione, non, lo so, non puoi razionalizzare ciò che in sé per sua natura è affascinante in quanto irrazionale. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Io ho avuto una lunga storia, pur essendo molto giovane, prima precedente a questa, che è durata più di 4 anni e che mi ha cambiato, ovviamente, come persona. Ti ha reso più cinica, vero? Anche, sì. Per questo adesso ho capito cosa è stato. E questa storia con chi era? Non voglio sapere il nome. No, certo. Perché non posso saperlo? Perché è brutto. È un brutto nome? Sì. Cioè, c'aveva un brutto nome? Sì. Nome o cognome brutto? Entrambi. Vabbè, mettiamo, tu stavi con una persona che aveva un brutto nome. Sì. Che solo a nominarlo veniva da ridere. Anche adesso, come si chiamava il tuo ex, come hai fatto a stare con uno che si chiama così? Tu quando l'hai conosciuto non sapevi naturalmente che aveva un nome infamante. No, lo sapevo perché mi ha scritto la prima volta su Facebook, quindi... Tipo trombetta, una cosa del genere. Ma una cosa così, quindi tu pensavi sempre, dice, mi prenderanno in giro, mi chiameranno la signora trombetta. L'unico pensiero che ho avuto, quando avremo dei figli, diamo il mio cognome che è più bello. Piuttosto che quel cognome infamante. Ma sì, perché ho pensato che un bambino poi soffre già per tante cose, è inutile dargli anche un cognome brutto. Ci sono dei nomi terribili. Sì. E tu cosa hai fatto? Gli hai detto a lui, se ci sposiamo però i figli hanno il cognome mio, non tuo? Sì, gli ho fatto una proposta. E lui cosa ha fatto? Lui mi ha detto, ma sì, effettivamente il tuo cognome è molto più bello, perché no? Però poi ne ha parlato con il padre e durante una litigata il padre mi ha detto che ero molto presuntuosa perché pensavo che il mio cognome fosse più bello del loro. Vabbè, tu sei andata a mettere le dita nella stirpe dei trombetta o non so come si chiama. Perché lui era fiero del suo cognome, il padre? Sì, molto. Sì, aveva anche uno stemma in casa in cui aveva fatto incidere su tutte le porte le loro iniziali. Se l'era inventato lui lo stemma? Sì, assolutamente, aveva delle velleità artistiche. E aveva trasformato il danno in virtù, l'incestità fece virtù. Per non essere preso in giro, l'ha messo lo stemma sulla porta di casa, con pieno orgoglio, capito? Con anche delle foglie, insomma, come se fosse uno stemma araldico, una cosa così. E noi abbiamo un collega, si chiama Tromba, qua, cosa deve fare allora? Si chiama Tromba. Tromba. Però tutta la famiglia c'ha la T, Tromba, la gloria della famiglia, gli uomini sono tutti contenti di chiamarsi Tromba. Le donne di quella famiglia in realtà hanno qualche imbarazzo. Eva Tromba, Giovanna Tromba, Manuela Tromba. Non c'è nessun problema, però a scuola, pensa, capisci? Pensa a Succhia, cosa potrebbe essere? Si chiamava Succhia? No, non si chiamava così, però dico, pensa a te, cioè, una donna che la si signora chiama... Succhia è brutto. È un po' brutto. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. No, tu fai l'attrice proprio come mestiere? Mm-mm. Cioè tu ti mantieni facendo l'attrice? Sì. E ci riesci? Sì. E cosa fai? Quello che capita, faccio tutto. Sì, tutto. Ma anche per strada, il mimo? No, in realtà no, però questa è la mia più grande paura. Cioè, di finire per strada? Sì. Sì, ma finora che hai fatto? Il programma per bambini, sì. E poi ho fatto dei piccoli ruoli in dei film, ho fatto una coprotagonista in un mediometraggio che ha girato il mondo, poi ho fatto un po' di teatro, spot pubblicitari a manetta, fotografie. Tu lo sai, esistono delle forche caudine invalicabili per una ragazza di buoni principi come te che renderebbero tutto più facile. Lo so. Ti è mai successo di passarci vicino? Sì. Succede ancora questa roba qui che ti ci provano? Sì. No, dai. Pensavo di no, tant'è che all'inizio ho dato credito a questa persona. Perché è una cosa coatta, antica. Infatti dicevo, no, non è possibile. Questa... Soprattutto per persone di un certo livello che lavorano. Questo era di livello, era? Sì. Cioè noto. Adesso molto conosciuto, sì. E come, spiegami com'è la dinamica dell'antico approccio sul divano del produttore. Allora, è successa così, che mi ha visto... In realtà era proprio produttore in questo caso. E, perché poi non fa solo il produttore, vabbè, noi sono... ha vari ruoli adesso nel cinema. E, mi ha visto ad un provino, e, poi è uscito dalla stanza, mi ha fermato, mi ha detto sei molto brava, com'è possibile che non ti abbia mai conosciuto, io ho tanti progetti, eri perfetta per fare questo mio ultimo film che ho girato e di qui e di là, mi piacerebbe farti lavorare, e quindi mi ha dato il suo numero di telefono. Tu non hai mandato un tuo agente, sei andata a te? No, ma io al momento niente, ho preso questo numero, sono andata a casa molto serena, molto tranquilla, poi intanto ho fatto questo provino per questo film, quindi avrei dovuto fare un callback, eccetera. Poi lui mi ha scritto e non ho capito bene dove volesse andare a parare, praticamente mi ha invitato nel suo ufficio e si è messo così a parlare all'inizio. Che era attrezzato col divano, come al solito. Che era attrezzato col divano. Già quello l'ha fatti per pezzare. Sì, infatti. E poi è successa una cosa che fa molto ridere, no, almeno. Almeno mi ha fatto molto ridere, nel senso che ha detto vabbè, adesso facciamo delle improvvisazioni, recitiamo, proviamo a fare la scena del bacio, guarda. Ecco, una cosa di questo genere. Tutti così fa, una cosa da cioè, dai film di Alberto Sordi o di Bombolo, cioè così. No, in realtà l'ha presa da lontano, ha detto la scena del bacio, ha detto scegliamo un genere cinematografico, quindi può essere drammatico. Poi lui fa il produttore, comico. vabbè. Infatti era a recitare Rancane proprio. Che doveva fare? Abbiamo scelto un genere. Che genere avete scelto? Guarda, non mi ricordo, perché poi ne ha provati a fare due o tre e la cosa scivolava sempre più nel ridicolo, perché ogni genere lui indirizzava questa sorta di improvvisazione sul verso bacio. Un approccio fisico, quindi bacio. E io all'inizio dicevo stop, finita la scena, no? Così. E ho resistito. E ti mette le mani addosso. Ah, sì, ci ha provato. Tocchiggiava. Sì. Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Quindi tu hai capito che... Io ho capito, mi faceva ridere perché appunto era una persona di potere, non potevo credere che una persona del genere sposata... Ma se il potere, questo è il lato oscuro del potere, che alla fine sei talmente illuso che il potere corrisponda all'onnipotenza, che fa anche ste cose. Comunque mi faceva molto ridere, mi sembrava... Ma faceva dire, senti cara, se me la dai forse faccio qualcosa, se no no. Io onestamente, fossi di potere direi così, sai, perde tempo con le storie. Ma io avevo messo le mani avanti, ho detto ma... Ah, quindi avevi cominciato te a mettere le mani addosso. No. Avevo messo le mani avanti nel nostro primo incontro quando mi ha detto non ti conosce nessuno, così. Dici io non la do subito. Io ho detto beh certo, perché non la do. E bravo, hai fatto bene. Beh, allora com'è finita? È finita che sono riuscita a reggere tipo un'oretta in questa situazione qui. E poi l'ho sfidato a biliardino. A biliardino? Sì, perché c'era un biliardino. E beh, quella è per la metafora delle mazze, delle palle, chiaro. No, in realtà è che la situazione si era fatta veramente tanto pesante. E detto, giochiamo a biliardino. E allora io alla fine, cioè, siccome lui voleva qualcosa che io non gli avevo dato, la situazione era molto tesa, non sapeva. Cioè, cominciava a essere tutto sudato. Era un po' agitato. Eh sì, lo sai, però ti dico, sai perché? Si era impillolato considerando i tempi. Ha detto, c'ho un'oretta e mezzo. Poi dopo diventa imbarazzante la cosa. Sì, cioè, stai mettendo in dubbio. No, lui si era impasticcato sicuramente. Un uomo che fa così va a botta sicura, si impasticca subito e c'ha il cronometro in mano, dopo mezz'ora l'effetto, poi dopo non so adesso come funziona bene, però secondo me non lo sai, era no. Lì e lui giocava a biliardino ma con le mani in alto, capito? E infatti ho vinto io. Certo, è logico. Però a quel punto mi sono pentita, perché avrei potuto scommettere qualcosa a quel punto per la partita biliardino. Non l'hai più sentito e visto? In realtà mi ha scritto dicendo hai capito male. Perché? No, perché io non sono stata molto serena con lui, non gli ho detto tu stai provando a fare qualcosa con me che io non voglio. Mi faceva molto ridere, ho tenuto delle distanze, non mi sono lasciata toccare. Poi ho voluto finirla anche, cioè, non volevo inimicarmi una persona che sì, oggettivamente certo. Piede nel 50% del cinema e della televisione italiana. Poi te la fa pagare poi alla fine. Esatto. Poi vedi, funziona ancora così, beh, evidentemente. Adesso capisci, delle 55 che gli passeranno il giorno davanti, magari due o tre passano. E poi è stato buffo perché l'ho visto in TV con sua moglie. Sì? Sì. Vabbè, io la moglie, io lì, in quel caso... Fa parte del suo lavoro. Però capito? Devo dire la verità che l'ho capito, perché la moglie sembrava un pochettino... Triste? No. Sempre sono tristi le mogli. Psycho un po'. Psycho? Una criminale? Non so, così. Cioè già è morta? No, non deve essere facile avere una così in casa. Ho pensato, non vabbè, per... Vabbè, mica l'ha obbligato qualcuno, sarà sposata lui, no? Sì, infatti. Che quindi già ti fa tenerezza quest'uomo? Ma mi ha fatto subito tenerezza, perché non... Ma come si fa, dai? Senti, a parte il produttore che ci sta, facciamo iconografia e letteratura, normalmente ti presenti bene, sei caruccia, dai, adesso a parte tutto, ti capiterà altre forme magari di aggressività? In treno non mi ha mai fermato nessuno? In treno sì. A parte me, in questo momento, mi è finalizzato a uno scopo nobile. Beh, io viaggio spesso, perché comunque sono a Roma e spesso vado a Milano. E ti approcciano in treno? Abbastanza, sì. Come, sempre con la solita maniera, con delle scuse? No, capita di essere proprio fianco a fianco nel posto, quindi si incomincia a parlare. Oppure magari sentono una telefonata, si incuriosiscono perché magari parlo del mio agente, cioè con il mio agente di un qualche lavoro, allora dicono ma cosa fai? Ho sentito. Fai l'attrice. Oppure dice, ho visto, magari sono al telefono un'amica, ti è piaciuta quella foto di quel catalogo? Ma fai cataloghi, come se fosse una... Cioè, per me... Beh, così pensano che sei zoccolo, però è questo. Ma come? Eh sì, no, fai attrice, cataloghi, no, per quello ci vuole. I cataloghi, mica i calendari. Ah, i cataloghi. No, i cataloghi. Ricordi che apposta al market, che sono i calendari? calendari, i cataloghi. Ma i cataloghi, non lo so, per esempio ho fatto adesso la brochure della Vespa nuova, in cui sono una ragazza che va in Vespa. Ah, non... chi Vespa mangia le mele, una volta era lo slogan, ma negli anni 50 ne rimanco nata. Infatti no, 60, non mi suona. Beh, chiaro, eri ancora, stavi nell'ipotesi di tuo padre, forse. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Vabbè, adesso allora a questo punto ti godi questo fidanzato, dovrei comunque... Sì. Beh, però ti rappresenta un problema, perché un fidanzato di un'attrice deve anche tener conto che tu devi avere una vita sociale e relazionale molto intensa, andare a cene, feste, cocktail, rischiare di andare dai produttori, fare provini, potresti fare anche dei film con Chenozé. Ce la fa a reggere l'impegno e il dolore di avere una donna che in realtà è una donna di tutti dal punto di vista dell'immagine? Beh, penso di sì, perché questa persona adesso è nello stesso mio campo. Quindi, anche lui l'attore? Sì, quindi può capire queste cose. Beh, però è terribile per te. Per esempio, settimana prossima devo girare una scena omosessuale. Devi fare una scena lesbo chic? Sì. E lui è contento, figurati. Ma mica tanto, oddio. Lui è come, non s'attizza. Infatti io gli ho detto, guarda, è donna, scusa, è il tuo sogno, secondo me. Invece? Invece hanno detto, mamma, insomma, così. E fa l'attore che gliene importa. Ma sì, deve fare un po' il geloso per fare la figura. Sì, però lo sai, dal punto di vista professionale è molto rischioso, perché se tu diventi più brava di lui o più nota di lui, più celebre di lui, ti odierà tutta la vita. Lui è bravissimo, ecco. Però sì, e tu, se no, se lui è bravissimo, starai sempre nella sua ombra, non avrai il coraggio di fare un passo avanti, perché se esci un attimo solo dal ruolo subordinato di lui bravissimo, sai benissimo che te lo perdi. Quindi non ti consiglio di stare con attore, la cosa più sbagliata del mondo. Vediamo adesso, perché lui è più orientato nel panorama teatrale, io più in quello cinematografico, quindi ecco, spero che teniamo due campi leggermente separati, lui può fare benissimo quello e io benissimo un'altra cosa. Quindi ti dirà, io faccio l'attore teatrale, sono il vero attore, la nobiltà della professione. E questo film Lesbo Chic quando lo fa? Quando... No, ma non è un film Lesbo Chic, faccio pubblicità. Un personaggio, sì è un film, faccio un personaggio molto controverso, un'artista, una pittrice radical chic che ha delle esperienze lesbiche, semplicemente. E l'altra chi sarà? Un'altra attrice? L'altra è un'altra attrice. Vi state già allenando? No. Qualcosa dovete fare però. Abbiamo cominciato a girare altre scene. Ma come fate? Lì sarà una scena realistica oppure? No, non credo. Abbiamo parlato col regista, ha detto che è tutto molto sfumato. Vi cospargete di Domo Pac nelle zone intime, così state tranquille, potete simulare. Così si fa di solito, non lo sai. Ci si avvolge Domo Pac dappertutto in modo che non si vede, non c'è il contatto. Ah, davvero? Certo, così devi fare. Devo dirlo a mio amico che ha fatto una scena. E non... Vi cospargete il Domo Pac, così c'è questa pellicola che salvaguarda. Ma poi si suda. Vabbè, ma se poi si suda, che vuoi. E poi dopo c'è il truccatore che continua a tamponarti la faccia. Vabbè, con la cipria. Me lo sono inventato adesso. Però a me, infatti, mi sembrava una cosa strana. È una va bella bene, immagine. Cara. Ti auguro una felice fortuna e una grande carriera. Ciao, buon viaggio, arrivederci, alla prossima. Ciao. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Ancora pregno degli effluvi della giovine attrice, cambio scompartimento, anche perché sennò diventa compulsivo il rapporto con gli interlocutori troppo piacevoli. E passo improvvisamente a un altro scenario. È lì che mi aspetta anche lui. Oramai dovrò in qualche maniera cambiare i miei connotati. Tutti sanno che c'è un curioso sul treno e tutti si appostano sperando che lui possa far loro qualche domanda. E lui è il giovane mercenario, il ragazzo che andò nella legione straniera per comprarsi un'automobile, quello che un giorno sparò un bambino e lo uccise così, perché in guerra succede. Mi aspetta ancora con una maglietta verde, con i pantaloni mimetici, con delle scarpe che ricordano lontano le scarpe delle sue gesta guerriere. E forse ancora qualcosa da raccontarmi, e questa volta voglio ancora ascoltarlo. Non è come raccontano i romanzi, che ci sono molti delinquenti, gente che ha problemi alla fedina penale. In realtà quando arrivi lì ti fanno uno screening. Fanno uno screening e controllano tramite l'Interpol se hai carichi pendenti, se tu sei ricercato per omicidio, se queste menate... E beh, quella è una condizione una per non essere arruolato, oppure ti prendono comunque? No, non ti prendono comunque. c'è una quota annuale che stabilisce il Ministero della Difesa francese, e anche su questa quota annuale vengono fatti i diritti di prelazione, perché molti che si arruolano sono francesi, perché non riescano a... perché l'esercito francese non ha dei grandi orizzonti anche economici o di Non fai carriera, quindi meglio la legione. E allora molti francesi, molti militari francesi scelgono di arruolarsi nella legione straniera, magari mantenendo sempre il solito nome oppure cambiandolo, perché anche quello non è obbligatorio, sai. Non è che ti obbligano a cambiare il nome. Tu avevi cambiato il nome? Sì. Mi piaceva un poeta, ho preso il nome di quel poeta. Una cosa ridicola. Un poeta italiano? No, Philippe Renoir. Mi piaceva il nome di questo poeta. Perché quando arrivi lì, successivamente, allora, appena arrivi, le cose che fanno è ti ritirano i documenti. Se tu hai dei documenti, patente, carta d'identità. Puoi anche non averli, ma puoi anche non averli. Beh sì, certo, uno può anche dire che non ce li ha, ma insomma, è impossibile che uno arriva e non ce l'abbia. Qualcosa ci hai il documento, perché sennò come hai fatto a presentarti alla gendarmeria? Perché non è che funziona che uno va lì, bussa alla porta, cioè puoi anche farlo se riesci ad arrivare fino a Marsiglia, però generalmente ti presenti a un comando della gendarmeria da qualche parte del confine, dici io voglio arruolarmi alla regione straniera, e loro ti pigliano e ti portano al primo comando militare vicino, e poi di lì con una tradotta ti mandano a Oban, dove ti fanno uno screening, e comunque ti ritirano i documenti. Poi se rientri nei candidati, diciamo, papabili per l'arruolamento, e se il bando di arruolamento lo consente, allora ti mandano direttamente a fare l'addestramento, ti ritirano tutti i documenti preziosi, se hai dei preziosi, ma tutto dentro una cassetta. La cassetta ha il nome tuo, che rimane lì, blindata, poi al momento che ti congedi o muori, ammandano i tuoi familiari da qualsiasi parte si siano. Ricordiamo ai signori viaggiatori che il treno va, non effettua servizio di prenotazione obbligatoria con posti assegnati. Hai visto mai rimandare a casa gli effetti personali di qualcuno che era morto? No, io no, personalmente no, perché queste sono cose che si occupavano dell'amministrazione, però sì, so che sono state rimandate indietro queste cassette. In un caso addirittura mandarono anche dovettero mandare anche un drappello militare, perché praticamente c'era un discorso dietro legato all'extraterritorialità, non gli consentivano, e allora andarono tre legionari a portare questa cassetta, perché all'interno, oltre ai documenti e agli effetti personali, quando uno arriva e si arruola, ci viene messa anche una parte della diaria. Ma a casa tua cosa avrebbero rimandato? Se fosse successo a te, cosa avrebbero rimandato a casa? Che c'era nel tuo sacco? Vabbè, la carta d'identità, una catenina d'oro che avevo lasciato lì, ma poi basta. Ah sì, avevo, quando mi presentavo, avevo 50.000 lire in tasca. Quelle me le prese, le mise lì dentro. No, io non presentavo, non avevo un ciufolo, non avevo nulla. Ero povero in canna ed ero scappato al volo, addirittura rubai la macchina di mia madre per andare fino alla, rubai tra virgolette, la macchina di mia madre guidando senza patente fino alla stazione, e la lasciai lì parcheggiato le chiavi nel quadro, che scappai proprio al volo, presi il primo treno per Genova e poi da lì verso la Francia. No, io non c'avevo nulla dietro, però c'è gente che si presentava con soldi, anche perché magari pensavano di ungere la ruota e poter entrare più agevolmente. Ma pagando? Ma sì, perché magari qualcuno lo pensava, diceva magari evito qualche controllo un po' più approfondito, oppure perché tanti si presentavano, non erano idonei. Per esempio c'era uno che mi chiese, il terzo giorno che eravamo lì ci facevano le prove delle urine, per vedere se eravamo tossicodipendenti. Ti chiese la tua pipì, perché lui c'aveva paura di risultare positivo. Sì, mi chiese proprio se gli davo la mia urina, se gli urinavo nella sua provetta. Io mi rifiutai, perché francamente non avevo intenzione di fottermi con le mie mani con una cavolata del certo, genere. E poi però dopo qualche giorno fu mandato via, questo qui era chiaro che era tossico. Vabbè, senti, io devo scendere adesso, però è interessante, se ci rincontriamo qualche altra volta mi racconti qualche altra storia di commilitone della legione, perché non credo tu me le abbia raccontate tutte oggi. Ce ne sono altre. Insomma, raccontarle tutte è un po' lunga, però sì, volentieri, volentieri. Allora, buon viaggio intanto, alla prossima, ciao. Grazie, buon viaggio. Esistono tante maniere per suicidarsi. Una di queste è avvelenarsi di televisione. L'ho vista, l'ho conosciuta, ho parlato con lei e mi piace raccontarvi la storia della donna che si sommerse in una casa piena di televisori. Affogarsi negli schermi in un flusso continuo di visioni che lentamente le mangiano l'anima e hanno anche cominciato a mangiarle il corpo. Anzi, penso, siccome la incontrai molti anni fa, oramai di lei non rimane più nulla. La vedova. Ho scelto di vivere costantemente sdraiata in un letto. Ho scelto di vivere di sola televisione. Capii che dopo la morte del mio amatissimo, insostituibile marito, quello era ciò che più desideravo. Ho trovato la via per non morire nel suo ricordo. Mio marito mi aveva lasciato di che vivere e così mi sono via via isolata dal mondo del reale per entrare nell'immenso infinito mondo delle immagini. E oggi godo di loro come un tempo godevo del corpo caldo del mio sposo. Mi alzo raramente dal letto se non per recarmi in bagno o per qualche breve passeggiata in giardino, passeggiate sempre più rare ora che ho raggiunto i 150 chili. In ogni locale della mia casa, così come in giardino, i monitor imperversano 24 ore al giorno. Comunque, dovunque mi muova, le immagini mi entrano dentro con i loro colori, con la loro magia, con la loro gioia, con il loro dolore, con la loro musica. Nella camera da letto, dove praticamente vivo, imperversano 3 grandi monitor. Nel primo, il più grande, quello che io chiamo Monitor Nord, ho fatto installare un sistema di automazione per cui ogni 25 secondi automaticamente il sistema commuta su un nuovo canale TV. Grazie alle 4 parabole installate sul tetto sono in grado di ricevere oltre 1700 canali TV da tutto il mondo. È stupendo! Il monitor est è libero, sempre acceso con audio a zero. Lo uso nei rari casi in cui decido di soffermarmi su un programma. Il monitor ovest è collegato a una telecamera a circuito chiuso che riprende me stessa che guardo. Da oltre 10 anni vivo nell'anonimato più assoluto, rifiutando qualsiasi contatto umano se non quello strettamente necessario con la servitù. Questo è quanto. E questa è la mia vita. Rifiuto umano? Follia? Non lo so. Non lo voglio sapere. Non ho tempo per pensare. Un'altra immagine scorre di nuovo veloce nel mio cervello e io di nuovo mi sento felice. Mi sento felice. Amen. Il treno va. Oggi ascolterò l'audiolettera di un caso disperato. È un uomo, se ancora può chiamarsi costui un uomo. Un uomo il cui amore avvelenato ha tolto ogni parvenza umana. Mi scrive disperato perché non sa liberarsi dalla sua ossessione. Ma non lo libererò di certo, anzi, ancora di più lo avvilupperò nel suo incubo. Caro Gianluca, ti scrivo perché ho bisogno di un parere schietto, brutale, chirurgico, in forma tale da addolcire la mia rabbia e il dolore immenso per un amore concluso e che stupidamente ho cercato di rianimare, trascinandolo come uno zombie, proprio come mi vedresti e come mi sento tuttora. Sono un ragazzo di 29 anni e già da un anno e mezzo ho terminato una relazione di 4 anni con una ragazza madre di una bambina di 6 anni. Credo o credevo, o forse vivo in un mondo parallelo da me creato che vede una sola via d'uscita, nella ripresina con questa persona, Vista la mia rabbia e rancore nei suoi confronti, non saprei proprio come spiegarlo a me stesso, perché coltivavo il sogno di una famiglia. La conobbi quando la bambina aveva appena un anno. Sapevo il peso di una relazione simile e la complessità. Ma conoscendoci col tempo, m'affezionai e innamorai. E mi presi la responsabilità di provvedere al benessere di entrambe. La storia proseguì. Entrarono a far parte della mia famiglia, conquistarono il cuore dei miei familiari e tutti ci vedevano come un trio ben avviato. Il motivo della rottura? Il sesso. Non riuscivo a soddisfarla pienamente e così si allontanò da me. Niente più carezze, nemmeno baci, nulla. Ma solo litigate e richieste economiche da lei, spesa alimentare tutta da parte mia, bollette e regalini. Mi contestava che non mi curavo esteticamente. Non curavo denti, alito, capelli. Li tengo rasati perché la pelata avanza. Ne parlammo di questo mio declino fisico, ma non cambiai perché lei non si confidava con me sul vero motivo della futura rottura. Non mi disse mai che il sesso orale da me praticato era orribile. A saperlo prima avrei provveduto. Sì, sarei rimasto offeso come uomo, ma la verità ha un sapore diverso. Mio caro, hai 29 anni. Se ti puzza il fiato, se ti puzzano le ascelle, se ti puzzano i piedi, lavati. Ma non ti lamentare se una donna poi perde fascino e attrazione. Perché l'uomo ha da puzzà, dicono le letterature, le leggende, le storielle che leggiamo nelle lettere scritte alla posta del cuore, nei patinati, raffinati e super fighetti giornali femminili. L'uomo alla fine deve essere pulito. E se tu non sei pulito, è chiaro che anche quella parte di cui era tanto fiero probabilmente aveva perso ogni fascino per questa donna. E quando una donna perde il fascino olfattivo, il resto è una china che va verso un baratro da cui non si esce più. Non mi soffermerei tanto su quella o l'altra pratica, anzi, la pratica da te citata è una pratica che richiede un livello di complicità e intimità molto stretto. I rapporti promiscui con una persona che gli puzza il fiato non sono piacevoli, anche se ti sta sotto l'ombelico. Siamo sempre vissuti separati. Lei con la bambina in un appartamento per loro, affittato da me e pagato da me, e io con i miei. Sì, è assurdo. Dovevo mollare tutto, ma il mio cuore tollerava umiliazioni e insulti perché c'era la bambina di mezzo. Perdere lei voleva dire perdere la figlia adottiva, dato che mi vede come il padre vero, visto che quello biologico la vede forse una volta all'anno. La rottura avvenne. Cercai di dimenticarla. Ci sentimmo e cercammo di restare amici. E qui iniziò lo sbaglio che mi trascino ad oggi. Mi comportai esattamente come durante il rapporto. A marzo scoprii che già da 2 mesi usciva ed esce con un altro. Sapere che un altro possa infilarsi nel letto con lei mi uccise nell'animo. Non capivo perché lo tenne nascosto così a lungo. Sì, non stiamo insieme, ma era palese che il mio restare accanto a lei voleva dire che ci tenevo e volevo riprovarci. La detesto come donna. Mi viene il rigurgito a pensare a lei che copula con un altro. L'ho visto. Non è proprio una bellezza. Ho fatto l'errore madornale di manifestare la mia gelosia ripetutamente e temo di perdere anche il mio ruolo di padre perché mi resta soltanto quello. La soluzione ideale è staccarmi, ma così facendo perderei la mia figlia adottiva, che mi vuole bene e non vedermi la ferirebbe. Sono un ipocrita mostruoso. Ho avuto rapporti occasionali, eppure non tollero che lei possa avviare una storia con un altro. Che dovrei fare? Perché so bene che non devo vederla, in nessun caso, e lasciarmi tutto alle spalle. Ma ci sentiamo perché ho accettato la responsabilità di padre. La piccola sarà l'unica che soffrirà davvero. Non voglio perdere la mia bambina, ma quando vedo la madre provo rabbia. Le ho detto che non potremmo mai essere amici, di non farmi conoscere questa sua conoscenza e di rispettare i miei spazi di padre. Ma più ci provo e più continuo a pensare che ora sta con quello e chissà che altro. In sostanza, detesto la madre, ma vivo per la figlia. Ho capito che per lei sono già nel dimenticatoio, soprattutto perché vuole essermi amica. Quello è il segno che non tornerà più con me. Come dovrei comportarmi da padre? Perché devo tenere a mente il benessere della piccola. Io giocherei a carte scoperte, non puoi prendere in giro a me. Sì, ti piacerà ricordare questa bambina perché l'hai vista, è carina, è tenera, hai avuto con lei un bel rapporto, ma non prendermi in giro. A te manca la madre, non la figlia. Se improvvisamente la madre tornasse da te senza figlia, ti dimenticheresti immediatamente che esisteva una bambina. Hai soltanto il terribile e avvelenato e rancoroso rosicamento di un uomo che è stato abbandonato da una donna che non si rassegna a questo, e per lui la cosa più importante è capire come lo fa, quanto lo fa, con quanta soddisfazione lo fa con quello che ha preso il tuo posto. Mio caro, non riesci a fartene una ragione perché sei malato. Dovresti andare da uno psichiatra, qualcuno che ti aiuti, qualcuno ti riesca a togliere questa ossessione. È un po' come la fobia dei ragni, è un po' come la paura degli spazi aperti, è un po' come la paura degli spazi chiusi. Tu in questo momento ti sei preso una brutta malattia, che significa passione insana per una persona che non ti vuole più. Ormai questa donna non c'è più per te. Sono stato compassionevole, in realtà sei tu che non ci sei più per lei. Lei ci sta, se la gode, se la vive alla grande. Dice, vada che bello questo qua che mi ha mantenuto per tanti anni. Peccato che gli puzzasse il fiato, che alla fine non lo sopportavo più. Per fortuna hanno trovato un altro, però quanto mi secca. Quanto è patetico vederlo con quella faccia, con quegli occhioni da cane implorante, da povero cucciolo che vuole l'osso. Mamma mia, ma perché non si trova un'altra donna? Perché non se ne va? Ecco, segui questo consiglio, trovatene un'altra. Se proprio non puoi trovartene un'altra, fatti frate, prendi i voti, dai un senso alla tua solitudine, ma non continuare a pensare a quella donna, perché per te è veramente morta.